B più 5 compareci. Allora, sto contattando un altro tipo di bordottore, praticamente ha una bicicletta a pedalata assistita, la sta valendo 150 euro, quanto può essere anche nuova, pieghevole, e dice che non carica più. E non lo so, adesso 150 euro è buono, poi bisogna essere la batteria. 150 euro è buono, sì. Prova che cosa ti dice. Quante parlate in due, cosa già? Guarda, sicuramente la batteria che si è esaurita, guarda, si trovano quelle batterie. Chi che si trovano? Ce li anche le vendete Fiocca, Conca, Scusci, via Napoli, tutti le vendono. Sai cosa fai? Vai con una batteria e la prudi, se funziona di la via. Ah, cos'è questa alternata? Non lo so, claro. Ma il Galaxy è questo? Il Galaxy. Ma chi c'era di nuovo questa alternata? Ecco, qua si sia il microfono. Deve essere il potenziometro del microfono che non sta andando bene. Ma togliti subito il problema, mettici il microfono normale e prova. Guarda così abbassando se c'è alternato. No, devi muovere la porta, schiaccia la portante. E già c'è, sì, già. Guarda ora, che abbassa appena appena. C'è, e più tiri sul microfono più si sente, ma c'è. Devi provare col microfono normale, falla subito quella prova, mettici il microfono normale e schiacciami la portante, per vedere se ha nuovamente il problema di qualcosa. Guarda qua! Schiaccia la portante? Appena appena si sente, di meno dell'altro. Ricordare che ce l'ho messo l'accendere. No, non è ventola già, schiaccia. No, non è ventola, non già. Non è ventola, si sente. Più leggero rispetto al primo, ma si sente. Sì, va, sulla guida dolce. Sì, ma non lo stava facendo, perché lo sta facendo di nuovo? Torno al trasformatore. Cos'è messo il bip del saletto? Sente. Ha voglia che si sente. Ho messo anche io. Anzi, tolgo quello del Galaxy e lascio solo quello del saletto. Attento, Lugariello, Lugariello. Cosa fai lì senza l'orcestello? Cosa fai? Aspetta, clamattino, che sto... come si dice? Parlano con la tipa della bicicletta. Io. Roger, Roger, come dice qualcuno. Roger. Però tu già, cazzo, mi hai messo il saletta, peggio di tu, fammelo sentire col microfono normale. Ce la fai a schiacciarmi la portante col microfono normale? Non è un microfono normale. Non è il microfono normale, ragazzi. Aia, Gianni, Gianni. No, io ce l'ho ancora imbustato, nuovo, nuovo. Schiaccia. No, non si sente più. Aspetta, adesso provo un attacco. Sta buono. Prova, prova, siamo qua anche per quello. K, cambio, Roger. Hola. Prova. Attenzione, canale 10, cambio. Ah, no, perfetto, già. Allora è qualche microfono che fa così. Questo qua, lo sai cos'è? Questo qua è Super Sidekick col Cobra. Questo va bene, non toccami, non tocchese. No, tocco, ma mai non c'è il microfono normale del Saturn? Sì, ce l'ho, ma ce l'ho praticamente, l'ho messo su, capito? Ah, K. No, comunque non ce l'ho più l'alternata. È sparita. Sì, l'ho messo praticamente, l'ho conservato, perché ce l'avevo tutto quanto qua, ho tolto il ripiano del computer, ho allargato i ripiani per metterci i microfoni da tavolo e adesso, capito, c'è un microfono da tavolo tutti come li voglio io. E si conferma, e io li ho rimessi lo stesso. Adesso c'è il 60, l'MB più 5, sarebbe 2MB più 5, tra più 3, saletta il 50. Ma me la fa una registratore a vedere come c'è il Cobra con le... col Turner, voglio sentirmi la voce. Aspetta, vai. E là, attenzione al canale 10 27 075, chi vuole entrare è la stazione Doppio Room che fa le prove tecniche di trasmissione. Te l'ho mandato. Aspetta che vado a vedere. Hanno la modulazione, bella chiara, pulita, forte. Ecco, è abbastanza chiara, va. Va bene così. Un po' di lusso. Io lo va bene. Capo, questo qua è Super Sideric. Tutto lo so nuovo. E c'è anche il look secco. Come voglio io. Certo che sì. Cioè il look fisso va meglio, perché l'altro stai a lottare, questo qui va bene, l'Ecomaster Plus no, entra subito, ma l'MB più 5 deve fare 2 o 3 volte per entrare in lock. Vabbè, anche questo funziona bene, era un po' duretto, però era sporco. Io ho pulito la guida, visto che c'è quella guida in acciaio, io ho pulito quella guida con una pena di olio lubrificante, adesso è perfetto. Cara gara, vabbè, e stavo parlando quasi a un braccio di distanza. Ma già va bene, c'è bisogno di allontanarti molto, io sono a 30 cm, come parlo con 60, parlo con questo. Vabbè, ma ero sdraiato, capito, sono sdraiato e sto parlando sdraiato. E mi viene meglio, appoggio il microfono sotto al letto e parlo. E si conferma. E si conferma, va bene, capa di Roger. Avanti, se vuole entrare qualcuno. Comunque si sta ripopolando la 27, ho visto che ci sono diversi forum dove mettono in vendita baracchini, acquistano, fanno, se lo piazzano nella macchina, hanno fatto vedere diversi filmati, piazzano solo nella macchina, addirittura questo si è preso la smart, ha detto sì la smart l'ho presa ma senza apparecchio non voglio stare, si è messo anche il baracchino, si è messo la staffa dietro nel portabagagli. Ma se praticamente vado a poi abbassi la staffa nel portabagagli, l'unica fascia di ferro della smart è il bicolore, capito? Il bicolore e basta. Praticamente i montanti, il resto è tutto resina, tutto plastica. Non lo so, magari ha preso una massa da sotto e l'ha fatta andare dove c'è qualche bullone, qualche cosa, è normale fare così per prendere la massa, perché se no la smart è tutto canto blastica. Io ce l'avevo l'antenna VHF piccolina con la base magnetica, l'unico posto dove agganciava nei montanti, capito? Nei montanti, quelli che partono da davanti fino a dietro, che vanno stretti e poi si allargano. I fascioni praticamente bicolore, quelli sono di ferro, il resto è tutto plastica. Ah, cappa. Vabbè. E comunque questo qua ha detto, come l'ho comprata me la sono piazzata, perché ho visto che anche nella sua regione dice che si stava ripopolando tutto, e questo non gli faccio altro che piacere. Ci conferma, è così. Qualcuno già sta rientrando, ma ripeto, già è perché siamo ancora secondo le zone, vedi, magari lì dove lui è zona rossa, nessuno può uscire. E quindi tutti sono a casa col baracchino, come è successo anche qua a Sassari, per cui una volta che ci lasciano liberi, poi la gente continua a fare quello che faceva prima. Vabbè, ma magari riacquista la cosa, la passione, perché tante persone hanno mollato perché hanno visto che non c'era più nessuno, però la passione gli è rimasta, capito? Dove c'è gente rientrano. Ma chissà che si ripopoli bene, raga, perché soldi li abbiamo spesi abbastanza in queste radio, queste cose qua, e adesso basta, Allora gioco al completo e anche di più. Poi con la bici là praticamente non carica, ho visto la batteria compresa dall'alimentatore, 200 euro, che è? Un bel costa la batteria, mi si è bruciata anche a mio cognato, l'ha pagata un paio di anni. Cappa. E non fai arrivabile a tirare nuova, lui ti hai venduto la moto, ti compri la bicicletta nuova direttamente e via. Che cazzo, ma io ho una moto, 350 euro è meglio la bicicletta nuova. Cioè, la bicicletta nuova costa 600, 700, 800, dipende dalla bici che compri. Noi vado a prendere una bicicletta 500 euro, non serve a nulla. E quelle buone? Quelle buone costano, dai 1000 euro in su. E cosa c'è da spiegare? Il motore che è più potente? più autonomia. Praticamente il monopattino non sale, ti faccio un esempio, in via Velongato non ce la fa a salire, cosa me ne importa? Non ce la fa. No, me l'ha proprio detto, non ce la fa. Dovrei prendere un monopattino, allora quello sto prendendo io costa 300 euro in offerta, sono a 350. Con 2 anni di garanzia, compreso di batteria, c'è anche la batteria ha la garanzia. Ce n'è una che costa 800 euro, non è sicuro, comunque allora quella prendo io 20 km fa di autonomia, invece quella là invece è 25 o 35 se non mi ricordo, 800 euro costa. Sono un meccanico perché sono giocattoli, non sono manco sicuri, e mi do la bicicletta per me non ho fatto. Infatti mi ha detto la bicicletta ce la fa salire, come? Adesso vediamo, dai, sono uno scooterone mi compro, 125, io mi basta, ma sono più una macchina, io avrei preso anche una 600, però quella che c'ha l'idroguida, ce la trovavo a pochi. Bisogna vedere, girare un po', c'è, bellina cazzo, io ho visto una tipa la stava vendendo, non è condizionata, avete elettrici, siamo l'idroguida, bella, mi sa 2500 euro. Sempre dipende dall'usaggio che ne ha fatto e quanti chilometri c'ha. Già sono macchine buone, c'hanno motori di buone come la vecchia Panda, la vecchia Panda che andava, noi ce l'avevamo 12 anni, l'abbiamo venduta, l'abbiamo versata la Peugeot, quando ha comprato la macchina se l'ha presa la Peugeot, ha detto ma bene va, sì, e allora ce la compriamo noi, possiamo fare il passaggio di proprietà, sì, fatelo. Ce l'hanno usata per portare i pizzi, perché c'era anche il portabagagli la mia, capito? E mezzo chi che brinches a cordu o chi ti o chi ti condene a brincos. Tu sai questa cosa, non ci comprende nulla. Cioè t'ha già, lo mando su Facebook. Ma aspetta, lo sto pubblicando. Aspetta. Cos'è il cinese? Ah, questa tipa, via, aspetta. Allora, prova a dire, e mezzo su chi ti brinchere a codu o chi ti godere a brincos. Mi sa che è continentale. Il continente già, parliamo quasi la nostra lingua. Come cazzo guarda, guarda, un bici piccolino, che non serve a nuda, non serve a nuda, proprio per passare la parola, 100 euro, cazzo io non riesco a vendere un bici grande 100 euro, va per carità. E ricordi che c'è sempre il mio, quello della Lenovo, a vendere, ma non avevo più nessuno, infatti l'ho conservato, già portato via, no? Sì, cazzo, di testa stavo vendendo un 124, nuovo, come così, 3.000 euro, del 1971. Vai, finirà. La giudina dai PD ancora su in radio e computer. Cazzo, è tuo. Teniamolo così, se me lo chiedono un fisso, me l'hanno chiesto un fisso a me. Però ancora bisogna sistemarlo. Ma non è completo? Come mi ha dato tutto, lo devi sistemare lui, già fare solo la pulizia e buona la scheggia, lo devi sistemare. Non ho problemi, no? Assolutamente. C'è da installare il programma nuovo e basta, finito, fare una bella pulizia e la radio a posto, il computer a posto. Lo so. Quanto devo ricavare tu, fammi sapere, così io, perché me l'hanno chiesto, capito, per studiare. Poi si dovrà comprare anche la webcam, visto che ho fatto i suoi, non sono problemi miei. Tutto le do io, te lo do la webcam che ce l'ho a parte, ce l'avevo, il monitor, la tastiera, il computer, tutto li do, c'è me ne posso. Quindi tu io non me ne intendo tu, fallo tu, venditelo tu, le do a te, t'arrangi. Ah, beh, tu mi dici quanto devo ricavare, ci mettiamo d'accordo io, ma siccome me l'hanno chiesto questa tipa per il figlio, no? Perché deve studiare. Poi sapere magari. Lo sistemiamo, casse e poi me ne porti il resto, insomma mi porti tutto, poi lo metto lo sgabuzzino, lo sistemiamo, poi ne parlo con questa qua, vediamo un po' quanto vuole spendere. Adesso è dentro la scatola, tutto conservato, il tè si è già portato via. Appena mi sistemo, te lo do tutto dentro la scatola, in ordine, deve avere una controllantina, lo accendi, le installi il programma nuovo, lo resetti, lo fai, ma non è nulla intanto, non è che c'è, qui, poi ci sia Facebook, ma sono quattro stronzate, niente di che. Dunque lo resetti, lo metti a posto, lo vendi quello che ti piace, ma non mi frega niente. Poi già c'era già, non ti preoccupare. E dopo che lo vedete ci dirate a me. Cosa già? Prima lo vedete e poi ci dirate a me. Parlare a te non me lo tengo io. Cava gara. Ma io ce l'ho piccolino lutto, lo ricordi quello che tu mi hai potenziato? Sì, sì, certo lo ricordo, sai sempre. Io lo uso tutti i giorni, sempre. Sempre sta funzionando bene. Lo uso anche per cantare, per giocare a karaoke, tutto quanto. Lo uso per tutto. Vabbè. È sempre veloce. Sì, sì, lui. È sempre nella sua velocità. Non è che c'ha. Che c'è una grossa potenza, ma girano bene le pagine, dai. Vedi come si. Ho capito, Cla. Allora, vediamo lui vuoi si prende i soldi. E allora? Ciao, pari macco, Sembro. Ma a parte di scherzi. Se si può vendere, cavolo. Secondo me è vero, se non lo usi. Io già lo uso, quello lì è piccolino, ma l'ho preso piccolo perché non ne volevo roba grossa. L'unica cosa che mi manca è la stampante, a me mi devo occupare una stampante perché con la tua amica ti mando via email, te lo mando, te la fai l'orario, te lo mando via email, così poi te lo stampi, no, non ne ho stampante. No, ma mio, non mi accontenta, quello che non è nuovo, che mai vi venduto tu. È un 1000 benzina del 2007, chilometri 125.000, tanti sono. Ah, lui, il computer, quello mio è forte. Oh, 125.000 km per un benzina, troppo insomma. No, benzina, non sono niente, 125.000 km. Una C1, 2.500 euro, la sta mandando una ragazza, Sofia Sini. Sofia Sini, non so, ma non sono niente, 100.000 km per una macchina a benzina. Ho detto il computer mio, Lu, è forte come computer, quello nuovo. Abbastanza. Com'era? Quanti giga, Allora, 320, 4 giga di RAM. Sì, ma Lenovo quello è buono come computer. Gappa, già va bene. No, non me la scheggia. Non ci ho fatto niente. Era un po' più lento ultimamente, ma perché lo stavo usando col coso, ho capito, il wifi di l'aria. Cioè, no, prima non c'era la linea, era fenomenale, adesso un'altra casa metto tutto linea, c'è la cosa, la fibra lì, non faccio il collegamento fatto bene là. Beh, certo. Perché non te lo porti giù, può servire per qualsiasi cosa, capito? Si resetta, me lo porti, faccio tutto quello che devo fare, la pulizia, ventola, si cambia la pasta della fredda, si fa tutto questo lavoro qua, lo facciamo un bel check-up, lo resettiamo, reinstalliamo il sistema, lui si più tranquillo. Ma come avevo un portatile, cazzo, è un barragione a tenerlo lì in mezzo, si riempie di polvere, di quello, capito? Questo monitor mezzo ai piedi, la tastiera, e invece che lo dicevi, lo appoggi nella scrivania, apri, è meglio il portatile, non si usano più questi. Questo è un monitor da 19, me lo tiene a mettere più. Sì, certo che lo ricordo. C'è la televisione, il monitor, un bel grande. Sarà, dai, quando sarà meno più libero, lo passa a fare. Cappa, Luca, che c'è in quella macchina che stavi dicendo? 1000. Non 1000 sono bei a benzina, in quei chilometri. La mia ne ha fatto 350.000 a benzina, però era un 1.400, un motore abbastanza forte come motore, la Opel. e così mi sembra che siamo tanti, perché dopo 70.000 si fa la ciga distribuzione, se non l'hanno fatta, e devi controllarti le ruote, devi guardare quello che c'è da fare di lavori e se ti conviene a farmi, capito? Certo, certo. Adesso vedo un po', do qualche occhiata, sono indeciso, bicicletta, moto o macchina. Se trovi una Fiat è meglio della Citroen, la Citroen crea un sacco di problemi. Come ti ha detto Gianni, se non ho fatto la cinghia distribuzione ti dà cappelli, se la macchina glielo devi dire. No, vabbè, no, come lo so, cosa l'ho chiesto. Però sai, per quei livelli lì, per 2500 euro trovi una bella Panda di ultima, magari non l'ultima, la penultima, che vanno molto bene, capito, del 2008 o del 2010, vanno molto bene quelle macchine a benzina, c'è il 1004 a benzina che non cuce mai nulla, c'è il 1003 multigetta, non fatto, di quella categoria lì, capito, però è meglio della Citroen, la C3 crea problemi, se non gli hai fatto le manutenzioni giuste ti crea problemi. Ah, beh, certo, io lo so. Io adesso devo guardare un liquido in più. Cioè, ogni volta che vai al rifornitore devi mettere questo liquido per pulire gli iniettori, boh. C'è una macchina un po' particolare, capito? Perché c'è una saccama molto, molto delicata. E ci mangia le bronzine, secondo come la usci. Le bronzine di banco. Quindi è una macchina un po' particolare, mamma ce l'ha bella la Citroen, mi pare abbia avuto 3 o 4 buchi, la versata si aveva preso la cosa, come si dice, la 600, adesso non guida più, però era così, no, ma per te qua va bene anche una bella 600, tipo quella che avevo io, che te non la muovo, cioè per addocchi cuscei, c'è la benzina di Icchi, l'amica di mia figlia, una ex collega di mia figlia, sta cercando una macchina e gliel'ho data. Ma è contentissima, è nuova, televeneciata nuova, a posto, dentro la nuova, motore c'è a 40.000 km, 1100 a benzina, fire, poi era l'SX, era condizionata, c'era anche vetri elettrici, idroguida, tutto va via. La girata 1200 euro più il passaggio, mi sembra. Io ce l'ho la Citroen 11 anni e non gli ho fatto mai nulla, non mi ha chiesto mai niente. Va benissimo la Citroen, ma lui ha parlato della C1, non della C3. E infatti noi stiamo parlando della C1, non della C3. È la C1 che crea problemi, non la C3. Poi la doia, non l'hai mai trattata, va a 30.000 km, quanti km va? Questa c'ha 125.000 km, se non gli ha fatto la cinghia distribuzione, non va bene. La tua quanti km ha? La mia ha 42.000 km, tutti originali, e va benissimo, non c'è rumore, non c'è niente, ammortizzatori perfetti, freni più che perfetti, tutto a posto, dunque va benissimo la C3, la C1 non lo so, però 140.000 km per la C1 sono tantissimi, e soprattutto 2.500 euro sono moltissimi, non tanti, moltissimi. Quella è una macchina che vale se no 1000, 1200, 1300 euro, 1500 esagerando, non di più. Ma cosa c'è di Zendi? Cosa c'è con i Zendi? Non vi sto con i Zendi, sto con i Zendi. Ma almeno di motori ne capite qualche cosa. Ma non lo vedi che quella macchina è 3 cilindri, non ha la cinghia, ha la carta di distribuzione. Cazzo. Io non gli ho vendato di nulla che avevo perduto nulla, lui ha detto C1, per me sono tutti uguali, cosa ne gioco già 3 cilindri o 4 cilindri? Tu che sei esperto spiegaci. Io non è che sono esperto, io ce l'ho uguale alla C1, la mia è Toyota, la Evo ha lo stesso motore che monta, la C1 è la Peugeot 107, è un 3 cilindri, 1000 di cilindrata, non ha cinghia di distribuzione, ha la catena e quella si fa solo esclusivamente se è rumorosa. È molto economica e il prezzo io della mia, che del 2008, è ancora sui 3.000-3.300 euro, la mia. La C1 un pochino di meno, ma è su 2.500, su sul 2005, no, non scende di meno di quello. È una macchina molto economica, non consuma niente. Prendete la Luca, è bella. Dai, con questo passaggio vi lascio, ciao. Ciao Massimiliano, ma 125.000 km, ciao, 2.500 euro. E beh, cosa vuoi che sia? Vabbè, io ricomprendo, io c'ho un meccanico di fiducia. Allora, la mia, la mia è del 2008 e ne ho 90.000. Io quando l'ho comprata, ce l'ho già 3 anni, ci aveva 69.000 km. Ma la mia è perfetta, mi Claudio l'ha vista, lo sa che macchina è. È molto comoda, viaggia bene, per città è bellissima, no? Vabbè, giustamente non hai grandi pretese di andare a farti viaggi a Cagliari, che ci va lo stesso, attenzione. Però è molto economica, sia di assicurazione, gomme, benzina, non consuma nulla. KK, ok, vi ho detto tutto, ciao, a dopo, ciao. Ciao, ci vediamo, ciao. Ma quel liquido, peraltro si mette quel liquido per pulire, come si chiama, ma l'ho detto poco fa. Vabbè, un liquido in più si mette nella Citroen solitamente, perlomeno quando io sono andato a vederla, quella che mi hanno presentato, sì, c'era un liquido aggiuntivo che si metteva per pulire gli iniettori. Ma io è la prima cosa che intendo, non si aggiunge niente, ho già. Ma già, ma della C1? La C1 si è andata a vetto, io non mi ricordavo che la C1 fosse 3 cilindri, Massimiliano, se no li avrei detto anch'io, perché mamma allora non c'aveva la C1, però aveva la C2. O la C3, boh, me la metto, perché aveva avuto un paio di volte, 2 o 3 volte, proprio per la distribuzione. Ma infatti la C1, la Peugeot 107 e la Toyota Ego montano tutte e tre lo stesso motore. Anzi, e ti dico un'altra cosa, lo stesso motore la monta anche l'Opel Corsa, tipo quella che ha preso Babbo, del 2003. È un 3 cilindri e monta lo stesso motore. KK, dai, vado a farmi una doccia, ragazzi, dai, riprendi Giulio. Io non la prenderei, comunque, ognuno fa quello che crede con i propri soldi. Io una macchina a 140.000 km non la prenderei, proprio per i vari motivi che sono stati già detti, cioè cattiva distribuzione, o cinghia, uguale, eccetera, eccetera. E poi, ma a me, la C1 vale una rara con i passi, camminendo, per carità, poi è bruttissima anche di figura, per conto mio. Comunque, Luca, di bene, di bene a dire. Vai, Luca. Aspetta, al telefono. Vai Gianni, buonasera a tutti. E ciao Giulio. Ma io a Luca le consiglierei di prendersi una macchina, ma una macchina magari seminuova, dai, di modo che abbia la sua vita poi. Perché se prendi già una macchina che ha chilometri, io solitamente le macchine a benzina le ho sempre date e quando arrivavo a 100.000 km le cambiavo, perché avevano già fatto la loro vita. Quando solo la, guarda, dico solo ed esclusivamente l'Astra Session Vero, gli ho fatto fare 350.000 km, ma non gli ho mai cambiato nulla giù, né cartella distribuzione, né nulla, è sempre andata, capito? Lasciava la cinghia, se una volta gliel'ho cambiata la cinghia di distribuzione, non mi hanno mai cambiato le marmite, le frizioni, nulla, la sua macchina era un treno. Gianni. Se per quello io ho avuto una Gianni per Vectra 1006 e la garage mai fatto nulla, perché era un treno. Alla fine mi sono stancato e l'ho data, cioè l'ho cambiata, anche perché non mi interessava più almeno 1006, per cui mi sono accontentato di un 1100, perché la C3 è 1100, tra l'altro paga poco di bollo, paga poco anche l'assicurazione, consuma poco, va benissimo, è una meraviglia, per me va benissimo, poi ognuno ha i suoi gusti e chiaramente e le sue pretese. Avanti qua. Ciao Pagliampa. Gianni, ti dico una cosa. Dimmi. Stamattina ero con Mariolino, un carissimo amico, lo sai che macchina c'ha? C'ha la Punto Tua e c'ha 360.000 km, non l'ha mai fatto nuda, quella celeste, capito? L'SX, non gli ha mai fatto niente ed è nuova, nuova, nuova. Vabbè, tra. Quella macchina io l'ho cambiata perché ho avuto un incidente grosso ed era messa un bel male, ci ho speso 7.000 euro sopra, non ti dico guasto, ho cambiato tutta la parte di davanti, il radiatore, eccetera, eccetera, e non mi fidavo più perché gli avevano tolto il motore completamente, la macchina l'ho vista schedettrita, dovevo viaggiare, non mi fidavo più, e l'ho data. Quella è praticamente, ha una bella coppia perché 70 cavalli, 16 valvole, insomma è una macchina che tira un bel e consuma poco. Quando lo vedrai lui a Betavia Catalocchina, sempre parcheggiata lì. Qualche giorno ti faccio una foto e te la mando. È nuova, nuova. Ti hanno toccato appena appena il baruto, infatti era lì dal carrozziere, la marra che l'avevo mettere a posto. Ma è tenuta veramente bene. Sì, già lo so, 70 cavalli, mi sono anche seduto. Cammina bene, ed è sempre uguale. Sì, LSX70S. Va bene, per dirti, no, che tu hai detto io le macchine, quella le date le sempre andate, e non ci ha mai messo una lira, le ha sempre tenuta bene in ordine, Mariolino, e ci tiene parecchio, capito, tutto qua. Giulio, io tornando con Sarelta, Master Plus e il Galaxy Saturn Echo, non mi hai detto niente. Va benissimo, che cosa ti devo dire, se va bene, basta, va benissimo. Non c'è problema, lo sappiamo, sta detta va bene, il gara ti va altrettanto bene, per cui cosa ti devo dire? Che va bene e basta. Bene, bene, bene, sì, mi ha dato Danilo, praticamente c'ho la radio sua, il Galaxy, e ieri mi ha portato anche il microfono perché non lo usavo. Così il più 3 lo uso magari con un'altra radio, là, vediamo. Oh ragazzi, sono le 8.25, io vi saluto momentaneamente, rimango in ascolto, non spengo nulla, vado un attimo giù a portare il cane e poi risalgo, ok? Vai già. E io anche là, buona passeggiata, sentiamo. Avanti giù. Ok già. Va bene, dai, che dire. Io sono appena arrivato, 10 minuti fa, niente di più, ho fatto 3 minuti di ascolto per vedere chi c'è la frequenza. Vi ho sentito e sono entrato, tutto lì già. E tu? Ieri mi sembra che non sia entrato per niente, io ero all'ascolto, nemmeno io sono entrato, nemmeno avanti ieri. Non ne avevo voglia, per cui. Ci sono dei giorni che non c'è voglia, allora non si entra, si ascolta e basta. E anche io faccio così, dai, quando ho da fare altro ascolto, magari entro per salutare e basta, dai, se lo fai ascolto non mi piace, entro, saluto e dico che sono all'ascolto, mi piace fare così, e vabbè, comunque, se hai altro da fare, prima si dà la priorità alle altre cose, poi sì, prima dovere e poi piacere, direi isso. Comunque, ritornando alle macchine, io prenderei piuttosto una macchina aziendale con pochi chilometri e me la godrei meglio, perché prendere le macchine che hanno molti chilometri, poi ti diventano spugne, ti si rompe una cosa, ti si rompe l'altra, alla fine non vi la vai in due, la devi già babba e fuzza. Quindi è meglio che ne prendi una aziendale, perché quelle aziendali loro se hanno difetti le mettono a posto, quindi te la danno perfetta, capito? Non usa la loro macchina difettosa. Sì, sono d'accordo con te, certo, ma una C1 non la prenderei mai io con tutti quei chilometri, lascia perdere. C'è la Toyota, prova a chiedere a Franco, il meccanico, a Franco Solina, da cosa ti dice della Toyota. Dice, se ti blocca il motore, ti dà pazzina perché ci vuole motore nuovo. Dice, perché è talmente complicato in una maniera impressionante. Comunque, questo è quello che mi ha detto il mio meccanico. Io appunto ne ho parlato anche di questo fatto della Toyota. Ma dice, sì, a chi piace già va bene, però è meglio che vada sempre bene, ma che se si blocca si arriva non fa. Questo è quello che mi ha detto il meccanico. Io sono falegname, non sono meccanico, però ti sto riportando quello che mi ha detto Franco Zolina, che è un bravissimo meccanico. E a me lo fa conoscere, è il mio meccanico. Io a Franco gli ho chiesto, quando lo compro la macchina, se lui era d'accordo se compravo una la Opel, e mi ha detto già, comprare tutto vanno la Opel, perché adesso stanno mettendo non più motori General Motors come era prima quando ce l'avevi tu, ma stanno mettendo i motori Isuzu che non servono a un cavolo, capito? Sono motori che non servono a niente, e la macchina è bella ma poi c'hanno un motore che non vale nulla, e quindi ho detto comprati tutto, comprati Fiat, comprati altre marche, ma non prendere la Opel. Sì, vabbè, quella che avevo io era la Opel Kadett, io ce l'ho avuta, poi ho avuto anche la Vectra, quella lo stesso. Quella mi sembra che avevo fatto 250.000 km e camminavo sempre. Solo che mi si era rotto un affare dello spingerogero, non mi ricordo come si chiama quel pezzo che si era rotto. Adesso sono andato alla Citroën, veramente mi hanno fatto il giro di tutti. E fra tutte le succursali di macchine, l'unica conveniente in quel momento era la Citro, intanto perché costava meno di 10.000 euro in contante, come l'ho presa io, esattamente costava 9.700 euro, e più ho pagato 300 euro per la rottamazione della Opel Vectra, e in tutto mi è venuto 10.000 euro contante. E io devo dirti che sono soddisfattissimo, perché è una macchina che è perfetta, a 40.000 km, naturalmente bisogna trattare bene le macchine, io le tratto sempre bene, non faccio le corse come ti vado in dei macchine, fa 160 km l'ora se la voglio far camminare, ma a me non mi interessa camminare così, per dire no, tutte le carte ti dirò di più, ho ancora le gomme originali, pensa un po' Gianni, 42.000 km. Lo so, se non la usi molto, certo. Ah, io poi sono molto pignolo, gli ho fatto a 20.000 km il cambio delle gomme, ho messo quelle di dietro davanti e viceversa, le faccio consumare come si devono consumare, la pressione è sempre giusta, poi la mia me la segna la pressione, se è sbagliata e se è più bassa ti segna la rotta che è sbagliata, capito? Cioè i sensori delle gomme, quando c'è la pressione bassa te lo segno. Ma come è giù? Quanti anni ha la macchina tua? 11 anni e mezzo per esattezza, anzi 12 a giugno, 12 anni a giugno, dal 1969, fate il conto, cioè cosa sto dicendo, dal 2009, fate il conto, è a 42.000 km, non c'è una vibrazione, non c'è un rumore, gli ammortizzatori sono ben fissi, i freni ho cambiato solo una volta le pastiglie. L'unica cosa che ho cambiato la batteria, questo 3 anni fa, una cosa del genere, 3-4 anni fa, la batteria, basta, ma tutto il resto, boh, quando la mattina quando apro la porta, lei già è morto. Meglio di così, cosa devo dire a una macchina? E poi ti posso garantire che è anche confortevole, il riscaldamento funziona benissimo, funziona tutto, è tutta elettronica, tutta completamente. L'unica cosa che non ha ho rotto come si chiama il telecomando, ho rotto e non l'ho voluto comprare, ma e uso la chiave così, per cui non c'è problema, va benissimo. Ecco, se ti trovi una di quelle a quei livelli ti posso garantire che fai un bel affare. Luca, quando ti bigliare al G1, ma che fai? Una rara così fatti, camminelli, ma che le dai? Sì, ma Ricco, la macchina ha 12 anni, le gomme sono originali, ma le gomme non si cristallizzano ogni 5 anni, sembra strano, vabbè, le gomme le cristallizzate. Sì, può anche essere così, può anche essere, ma per dirti no, come consumo, sono buonissime ancora, come consumo, poi il fatto che potrebbero anche essere cristallizzate, queste non lo so, sicuramente, ma a me poco mi interessa, non lo uso quasi mai, adesso in questo periodo, soprattutto un anno, ma lì, però nonostante tutto, io quando mi occorre, prendo, e ecco le casse anche parecchi tavoloni, parecchie porte ha caricato con la macchina, tra l'altro si capisce bene che l'ho anche usata per lavoro e va bene, insomma è una macchina che va bene. Mi ero informato prima da un cliente che ce l'aveva e mi ha detto prendila, perché è una macchina ottima, e così è stato, e sono contento. Eia, l'assicurazione mi vuole pagare una cavolata all'anno. Io l'assicurazione pago 150 euro ogni 6 mesi, ogni 6 mesi 150 euro, di buono 113 mi sembra, se ricordo bene, una cosa del genere. Ma c'è la base di assicurazione? Cavolo, 150 euro ogni 6 mesi, bello, bello così. Se non mi va a farla, almeno mi manda 1000 euro, 2000 euro. Ehi, capita, tu fai l'assicurazione che mi sono io e vedrai lui di fronte alla CBC, sulla sala secca, e paghi pochissimo, tranquillo, è pacifico. Avanti già. Allora io ne pago 160 ogni 6 mesi, praticamente, però c'ho l'assicurazione base, perché poi dalla Fiat c'ho furto, incendio, coso scasso, eccetera eccetera. Sono tutte cose che mi ha dato la Fiat quando l'ho comprata gratis, quindi io sin quando la macchina è in garanzia ho questa tipologia di assicurazione, quindi io ho fatto la base e mi viene 160 euro e la mia è 1.400 di cilindrata. Ecco. Registrato a Brecco. Sì, anche io ho furto incendio, ho in caso di rottura del vetro, poi cosa c'era? Il carro attrezzi in caso di necessità, tutte queste cose qua. E 150 euro a ogni 6 mesi. Avanti Brecco. Sì, dai, ciao Giulio, ho ripreso. KK, ok. Ok, ma se me li ha. Bene, bene, ben entrato, sono contento. Sì, ma è così, poi chiaramente si sa, le macchine bisogna anche trattare bene, se uno ha cuore con le macchine durano, perché durano, io tutte le macchine che ho avuto mi sono solo stancato, le ho portate al ferro vecchio per la trasformazione camminando, mi cavavo gli darghi, mi cavavo e la batteria e gli lasciavo la macchina, e questo l'ho fatto più di una volta. Avanti Luca. E l'altra qual è? L'Opel, cos'è? L'Astra, cos'era? Quella che usavi per lavoro. E poi la portacarrozza non ce l'hai più. No, quella da quando ho smesso di lavorare, cosa mai facevo? Pagava 600 euro di assicurazione all'anno, quella pagava più dell'assicurazione, più della macchina. Per cui non era il caso di tenerla, no, assolutamente. E anche quella l'ho fatta rotomare funzionante anche quella. Mi ha cavato la batteria, mi ha cavato e poi se l'ha portata via Marcello, se l'ha portata via. Avanti Massimiliano. Eia, positivo, là. Eia, bella, ma diciamo che stavo un po' ascoltando oggi, ma tu la macchina non la tratti proprio. Se c'ha 11 anni o 12 anni e c'ha 40.000 km la macchina non la usi proprio. E adesso non la sto usando proprio, però la sto usando pochissimo, ma già l'ho usata, l'ho anche caricata qualche volte, ha trasportato tavoloni, anche da poco, perché mi sono fatto un lavoro per casa e l'ho caricata anche da poco, io ho fatto di un mese fa, non più di un mese fa, per dire, ma quando stavo lavorando non era sempre che utilizzavo il motocarro, se dovevo portare via due porte ad esempio, le mettevo sopra l'imperiale e le buttavo lì, o due finestre e me la portavo via così, non c'era bisogno di, oppure se dovevo prendere, non so, 4-5 tavole, 6 tavole, andavo a Porto Torres e me li caricavo sopra senza andare col motocarro, andavo col motocarro quando dovevo prendere un metro cubo, cioè 30 tavoloni, 35 tavoloni, allora sì, e andavo col motocarro, ma per poco carico andavo con la macchina anche. Poi naturalmente strada ne ho fatto con motocarro tantissima, forse mi è arrivato più con il motocarro che con la macchina, perché il motocarro l'ho tenuto quasi 40 anni, ti puoi immaginare, ne ha fatto di bella strada. Va bene, avanti Gianni. Capa, dai, io adesso vi saluto, che devo andare a portare giù il cane, dai. Ci sentiamo ragazzi, mi ha fatto piacere questo, buona continuazione, per Perunque RT esecutivo. Ok, ciao già. Grazie a te per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo magari più in là, magari domani, se ho voglia, domani. sarà una giornata un po' pesante, ma a me che devo fare la terapia, comunque. Allora che rimasti meglio, salutare il cane. Positivo, ciao già. Buona continuazione di serata e buon tutto. Ci sentiamo alle prossime, dai, vai Lu. Ehi, ciao a tutti. Io vi saluto, sono appena rientrato a casa, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Ehi, ciao già, alla prossima. Ciao Antonio, avanti Giulia. E io qui saluto Antonio, ciao Antonio, ben ascoltato, ben rientrato al lavoro. Ottimo, ottima, ottima idea, tutte le sere qua, appena arrivi a casa fai bene che inizi a salutare almeno. Peccato che poi magari io mi devo trattenere poco, perché di solito alle 8 si cena, poi per cui dopo quell'ora lì non riprendo più. Non riprendo più nel senso che poi magari tra cenare tutto passo una mezz'oretta buona e poi guardo la televisione. Va bene, avanti Massimiliano. Capi anche io, un altro paio di passaggi e poi me ne scendo giù. Io sono rientrato anche da poco dal lavoro, da Rizinco Giovanzano, gioco il Tracomune, quindi voglio la verità di stare in radio, non è che ne ho molta. KK, e vabbè, era giusto, io sono entrato, vi ho sentito, giusto un intervento così al volo, ma ti ripeto, la voglia oggi è poca, là. KK, io vi saluto, che ha già preparato da mangiare la mia signora, vado già a mangiare, se ci sentiamo dopo, ok? E io, ciao Antonio, ci sentiamo, là, vai Lu. E a dopo Antonio. Se ne viene Ghana, se no nulla. Vabbè, comunque, come ha detto Massimiliano, oggi la usi un po' poco la macchina, ecco perché ha tutti questi chilometri. Tu pensa che la macchina della mia compagna ha quasi 160.000 chilometri, è del 2006, 14 anni. Sì, è sempre quello l'affordo che abbiamo versato, che poi abbiamo comprato un'altra macchina, adesso io ho anche l'affordo EcoSport, per cui quella invece un macchinone è praticamente un SUV, quella è nuova, quella ce l'abbiamo un anno e tre mesi, un anno e quattro mesi, una cosa del genere, quella è proprio da poco. 24.000 euro, vabbè, comunque, è chiaro che le macchine costano molto. Anche quello come assicurazione non paga eccessivamente tanto, la verità. Vabbè, però quello è già un macchinone, è un macchinone alla grande, veramente. E dunque, anche quella cercata. Vabbè, dai, avanti Massimiliano. E quanto è di cilindrata quella oggi? Ma se vai tra la verità non lo so nemmeno, mi sembra adesso non me ne ricordo, se è 1.400 o se è 1.600, forse è 1.600 però, forse è 1.600, è alta, molto alta, è un SUV praticamente, EcoSport si chiama, mi sembra che sia 1.600 di cilindrata, ma ha tutto, computer di bordo, qualsiasi cosa che tu vedi è centralizzato tutto, quando la chiudi ad esempio anche i vetri con il telecomando chiudi, c'è la telecamera, no? Per vedere quando fai la marcia indietro ti avvisa sempre a qualsiasi cosa, insomma è una gran bella macchina, ma vedda, l'unica cosa che trovo un po' sconveniente è che quando ti siedi è troppoata. Quasi non va a toccare a punire bene in terra da sedile. Tutto io, Massimiliano. Già lo so. Si apre lo gofano, chissà macchina piltate dentro la mia. Gappa. Sì, no, vanno bene come macchinette, là. Ma io ho la Multipla, non so se la conosci come macchina, della Fiat, è 1.900 di cilindrata e pago 260 euro all'anno. Con conducente e carrozzeria. Sono rientrato, buonasera a tutti. Ok Claudio, sì, la conosco benissimo. La Multipla ce l'ha avuta mia cognata, ce l'ha avuta, sì che la conosco molto bene. Ci ho seduto anche diverse volte. No, sono una macchine che vanno bene, altro che sono macchine che vanno benissimo anche quelle. Però la Multipla è già una Fiat, e la Fiat lo sappiamo, no? È la nostra marchia. Io ne ho avuto tante, anche Fiat ne ho avuto, però devo dire che forse le macchine straniere durano di più, nel senso che ho notato che le macchine Fiat dopo 70.000 km massimo non sono più allegre come le macchine straniere, mentre invece le macchine straniere anche quando hai 150.000 km sono allegre. Io mi ricordo la Opel Kadett che avevo, era 1100, mi sembra 1200 di cilindrata, per la testa, era un macchinone grandissimo e andava benissimo. L'ho regalata a un amico, ce l'ha portata in campagna, la utilizzava a portare i blocchetti da una parte all'altra della campagna, perché si aveva fatto tutto il muro, si aveva fatto attorno alla campagna. E poi la Opel Vectra lo stesso, quella parlava bene, la 1600, quella era eccezionale, lì c'era una scheggia, una volta che la lanciavi lui e trovava bombia. Però consumava, la verità, devo dire che le macchine Opel a me mi consumavano abbastanza. Mentre invece questa Ford sembra abbastanza contenuto il consumo. A parte, vabbè, la Citroen lo sappiamo, è un 1100 appena è cilindrata, non è che consuma eccessivamente, però non lo so, io la penso così. Vai ancora Massimiliano. Va bene, dai. Io la macchina mia c'ha 330.000 km e non l'ha giovato mai nuda, lui non lo so se le macchine straniere arrivi neanche c'ha a quei chilometraggi, sicuramente li supereranno anche, capito? E ti dico che ancora oggi con 330.000 km viaggia forte, capito? Viaggia forte. E vabbè, dai, l'EcoSport è una macchinina, non è che questa grandissima macchina, ecco, no, sembra una grande macchina, ma alla fine il motore non finne, capito quello che ti voglio dire? Poi vabbè, per come ti ripeto, dipende anche dall'uso che ne fai, perché se la macchina la devi usare così, banda passeggiare, ti dura 30 anni, ma se la macchina la usi, come la devi usare? In genere uno che usa la macchina fa dai 25.000 ai 30.000 km all'anno, più o meno, chi usa veramente la macchina, capito? Ecco perché giustamente durano una vita, perché la macchina si usa poco, ecco. Avanti, Cla. Ma infatti, la macchina meno la usi più ti dura, giusto? Poi più la usi e... cioè, più meno la usi e più ti dura. Più la usi e meno ti dura. È così, è normale. Poi se avrai problemi, capito? Gommini contro gommini, rumorini strani. Adesso, per esempio, la macchina di Marina se ne ha fatto da volo. L'ultimo lavoro che ha fatto ha speso 600 euro. Praticamente ha cambiato la frizione, ha fatto tutto, cambio olio, filtro, poi addirittura che alla Ford, che sono specializzati, non si sono accorti, perché abbiamo fatto un giro grande e faceva questi rumori, no? Quando prendeva la curva, così, no? Cioè non si sono resi conto, cioè non si sono accorti che la macchina aveva, non gli mancava l'olio nel cambio, ma ti rendi conto? E poi gli hanno sparato 2000 euro così, e potrebbe essere il cambio, potrebbe essere, io non gli ho detto niente, però gli ho fatto capire. E invece ne ha speso meno della metà di soldi e gliel'ha sistemata un mio amico meccanico, ma veramente bravo. La macchina chi la usa, io ti dico, io della Multipla ho sostituito tantissime volte gli ammortizzatori, consuma molte gomme davanti perché è molto pesante come macchina, pesa 15 quintali, non è una macchinina così, un peso. La frizione gliel'ho fatta, la cinghia-distribuzione gliela devi fare, queste cose gliele devi fare, però va a 330.000 km, non è una macchinina che non ha viaggiato, capito? E giustamente uno guiderà Savè, ma così, tipo quella di Giulio che fa 40.000 km in 11 anni, quella macchina, diciamo che è stata più ferma che viaggiando, ecco, avanti giù. Sì, ma certo, perché quando avevo molto caro usavo molto caro, a volte anche per viaggiare da casa in falegnameria e viceversa. tagliano le botte di 20 km, avevano mai 250.000 km da Opel Vectra e la Puglia si era fatta di strada, anche quella era un muletto, era però si sa, Luca, la salute della macchina è sempre le manutenzioni, deve fare le manutenzioni, olio, sempre, questo è importantissimo, è importantissimo, niente strappi, niente sorriso Pirelli con le gomme, e tutto funziona alla grande, glielo guido io. La macchina vuole guidata anche con un certo garbo, no? Se poi uno fa dell'ubriata è chiaro che prima o poi deve andare dal meccanico e per metterlo a posto. Avanti Massimiliano. Si conferma. Vabbè. Le macchine sono macchine oggi, quando si fa se tocca a cussarli, è come hai detto tu. Io per esempio in questa qua, giustamente adesso ho già un po' di chilometri, quindi l'olio al posto di farglielo ogni 15.000, ogni 20.000, glielo faccio ogni 10.000, capito? Queste cosettine devi fare, filtro gasolio, cambio d'olio, le pastiglie quando sono consumate le devi fare, e le gomme quando sono a cavere, cioè l'usura c'è della macchina grande, invece della piccolina, della Ego, da come desiro di benzina, lui che di medura, non consuma niente, quella lì è leggera, con 200 euro metti 4 gomme nuove, cioè io pago 200 euro di assicurazione all'anno di quella lì, cioè è una macchina molto economica, capito cosa ti voglio dire? Per uno tipo come Luca, che non ha queste grandi pretese, una macchinina così secondo me, va più che bene, secondo me. Sono punti di vista che ognuno la vede a modo suo, certo, io le consiglierei almeno una C3 oppure una Panda che vanno molto bene, la Panda ce l'ha anche un mio parente e va benissimo, ma veramente bene, no, non ci sono dubbi. Diciamo che come rumore di motore è un po' alto, però qualcosa di una futti, non è che devo guardare queste cose, non è silenziosa certamente come la Citroen, sempre quando sono fermo al semaforo io non la sento nemmeno, è così la Ford EcoSport. Tu mi dici che non c'è motore, è roba di 190 all'ora, guarda, perché se c'è motore, alla grande o Massimiliano, finge, interessante è spingere il piede, pure vedete, ma altro che... Avanti Luca! Ma infatti, è così, la macchina poi vabbè, Massimiliano, tu grazie a Dio stai in campagna, mi sto incendendo un Bemiano, caro Monti Dorra. Cazzo, le prendono di mira, te la mettono a fuoco, anche per quello ho paura, anche se non ho giocato da nessuno, comunque. È un casino, da poco ne hanno incendiato una vicino a casa, una Mercedes, cazzo, un casino, anche per quello, capito, ma me la compareggio, cazzo, poi, non so, non devo pensare a quello, però io ci penso. Allora, lo sai che c'era una bella macchinina che stanno vendendo? Non so se poi a te ti piace la Merifa della Opel, ti piace? No, mi piace, troppo umana, io voglio una macchina piccola, tipo una Ford Fiesta così, se la trovavo anche diesel, modello di quello della mia compagna. Ci sono così 2-3 mila, un bel di nasso, non ti conta, di 3 mila, più passaggio, più la sicurezza, almeno un 4-5 mila per prendere una macchina a seconda mano. Allora voi la mia, la vuoi? No, non è voglio macchine così potenti io. La mia te la regalo, te la regalo, ti fai un massaggio. No, lascia perdere. Mi basta un 1.200 così va bene a me, mi basta e mi avanza. Lo so, quella è grandetta. Per uno che vuole iniziare è grandetta, da mantenere è grandetta. KK, va bene, ragazzi, mi avete chiamato, mi sono allontanato un attimo. Eccomi, sono rientrato. Vabbè, dai, io adesso vado a fare cena, là. Faccio un battatone di latte, stanotte leggero, va. Tanto già, grazie a Dio, prima lo digerivo anni addietro, adesso sì. Va bene, dai, l'acceso qua, se magari ci siete, bene, se no ritenetevi salutati. Aspetta, Lu. Oh, dimmi. Da voi una bella 159 a 1.500 euro, tutto va bene, No, li voglio macchine grossi, no, ma sì, a me no, Cioè tu pensi al primo assicurato, io non ti vado di paga. L'assicurazione pagherai tanto, quello che ti frega. Va bene, dai, ciao Lu, ci sentiamo, e anche io mi stacco adesso come Lucca. Devo scendere giù per forza, mi ha già chiamato due volte, non a mangiare, però a dare una mano, dai, ok, vi saluto a tutti, dai, tanto ha ripreso Antonio, c'è Giulio, Luca e Claudio, ok, dai, saluto a Luca, riprendi il clan, che io mi assento, va, ciao. Ciao, ciao Massimiliano, scusate, ho ripreso io.